Benvenuti a questa nuova puntata della rubrica. Oggi parleremo del progetto Razblog Pigiama Media, nato grazie alla collaborazione tra liberalcaffè.it, giornale online, e la talk radio dei blogs Radio Alzo Zero. A questo progetto stanno lavorando in molti, anche io ne faccio parte, ed è solo grazie al lavoro di gruppo se il progetto ha visto la luce in tempi rapidi. Ci sono delle precise linee guida, inoltre, grazie alle quali si cercherà di migliorare sempre più Razblog e Pigiama Media. Un nuovo modo di aggregare in rete, quindi, diverso da tutti quelli in circolazione, un aggregatore che cercherà di essere punto di riferimento e voce dei blogs. Creare, quindi, grazie a Razblog, un'alternativa all'aggregazione fin qui vista sul web, selezionando quasi in tempo reale i post dei blogs che hanno aderito al progetto, mettendo online solo quelli meritevoli secondo le tante redazioni create per poter soddisfare più o meno tutti i gusti, avvalendosi inoltre di uno strumento utile, il metodo della democrazia diretta, per poter moderare e migliorare il tutto sempre meglio. Come redattore della sezione di politica estera spero di poter selezionare sempre il meglio della blogosfera aggregata a Razblog e Pigiama Media, e quindi di rendere efficace l'aggregazione stessa di un post e la sua diffusione. Come redattore in generale faccio un appello a chiunque abbia voglia di diventare collaboratore di una delle varie sezioni di Razblog, per aiutare noi redattori nel difficile compito di selezione dei post, per poterne individuare un numero superiore e per poter aggiornare la categoria di riferimento più volte durante l'arco della giornata. Non mi resta quindi che indirizzarvi su www.razblog.org. Divertitevi pensando, scrivendo e aggregando. Con Razblog Pigiama Media c'è un modo migliore di aggregare il proprio pensiero in rete. Vorrei ricordare inoltre che partirà prossimamente una nuova rubrica, Pixel, curata da me, con interviste, radio talk show e si spera in futuro anche video talk show. Anche in questo caso, se sei un blogger o comunque un fruitore della blogosfera e vuoi partecipare al programma, puoi contattarmi all'indirizzo mail pixel@podomatic.com. Si parlerà soprattutto di politica, ma anche di fatti di cronaca e tematiche legate al sociale. Bene, termina qui l'ottava puntata della rubrica radio. Vi aspetto per le prossime puntate e naturalmente anche su www.razblog.org. Danilo Di Stefano è tutto, a presto!